che leggeva dalle 3 alle 4 lezioni, ogni parola deve essere calcolata e scritta. E leggeva a altissima voce e io regolarmente mi sono addormentato. Mentre la sera i suoi seminari erano affascinanti, lì questa lezione con tutta la come si addormenta anche accanto a una cascata a Gastein, questo continuo, mi sono regolarmente addormentata all'età di 18 anni, tanto più adesso, e invece così cercherò, anche per questo non è una scusa, che la mia il mio contributo sarà soltanto una chiacchierata molto personale e come tale non una relazione o comunicazione sistematica, ma soltanto un mazzo disordinato di ricordi e pensieri di quasi mezzo secolo, una aggiunta ai contributi seri degli amici e colleghi che mi hanno preceduto o che parleranno ancora. Sono ricordi di incontri. Incontri sono anche nel nostro caso sempre incontri letterari o anche incontri personali. E cercherò di mantenere un certo ordine, come conviene ad uno storico, un certo ordine cronologico. Però subito al principio c'è una difficoltà. Il primo ricordo è un ricordo storiografico, ma già qui mi viene il dubbio sulla cronologia e la lettura attentissima del volume Europa settecentesca ed altri saggi di Ricciardi di Milano e Napoli del anno 1951, e qui siamo già e rimarremo quasi fino alla fine debitori del grandioso contributo di Raffaele Mattioli e della Banca Commerciale Italiana, una cosa secondo me unica in Europa, almeno in quel tempo, di questo grande contributo per gli studi storici italiani e perciò anche per quelli di altri paesi europei, anzitutto per quelli tedeschi. L'esemplare collana diretta da tanto tempo dal carissimo amico Leo Valiani e l'altra collana o le altre collane di riformatori e di memorialisti, insomma grossi volumi, magnifici volumi di Franco Venturi e di Furio Diaz, eccetera, eccetera. Di questo volume dell'Europa settecentesca e altri saggi, che non so più se l'ho letto negli anni 50, quando ero ancora a Vienna, già docente, preso la libera docenza nell'anno Mirabilis dell'Austria nell'anno 55, l'anno del Trattato di Stato, però dopo quando mi ero deciso di occuparmi più direttamente del Settecento e quando mi sono poi trasferito ho avuto la chiamata dal 58-59 a Colonia e mi ero deciso di occuparmi di una biografia di Pietro Leopoldo. E quando è venuto l'amico Venturi e mi ha dato, e prima ancora Chabot, in occasione sono sempre i centenari, il centenario di Carlo V, organizzato da Peter Rasso, mentre io che ero lì, e già Chabot mi ha anche, Chabot che avevo già conosciuto al congresso tedesco del 37 a Erfurt e Weimar, e poi l'anno dopo, che noi eravamo nel 38, al congresso internazionale di Zurigo, in quella situazione, proprio durante il periodo della crisi dei Sudeti. E lì in queste due occasioni, e poi avevo conosciuto Chabot anche a Roma nel 40-41, quando io dovevo occuparmi delle nunziature del periodo del Concilio di Trento, e lui mi ha dato il suo libro sullo stato di Milano nel periodo di Carlo V. Così Chabot l'ho sempre incontrato nelle diverse situazioni di allora, e lui, credo, o è stato lui o Franco Venturi che mi ha segnalato questa Europa settecentesca ed altri saggi. Aprendo questo libro, sono stato subito colpito dalla espressione: "Non mi arrampicherò sugli specchi", perché questa espressione, che mi era nuova, non l'avevo conosciuto ancora, mi è piaciuto straordinariamente, l'idea di quella mosca che si arrampica sugli specchi. E lui continuava a scrivere: "Non mi arrampicherò sugli specchi, non dirò, come usa dire nell'occasione di raccolte di scritti vari, che c'è un filo che li unisce, che un'intima unità c'è anche se non si vede." Questo è bellissimo. "Confesso candidamente, qui non c'è nessun filo ascoso, nessuna unità segreta. C'è la sola unità, ovvia, poco o molto punto personale, poco o molto o punto personale che sia, di porsi di fronte ai fatti storici, di studiarli, di chiarirli, di interpretarli, di valutarli." Questa confessione mi ha fatto impressione anche per il fatto che ho qui ritrovato la intellectual honesty, la onestà intellettuale, che proprio non europea ma americana, che mi aveva tanto colpito con gli americani. Questa sincerità di ammettere di non credersi un padre eterno che sa tutto, ma in fondo è un ritorno al vecchio atteggiamento ranchiano, eccetera, ma non hegeliano, perché da Hegel in poi, specialmente i professori tedeschi, gli storici tedeschi, credono di avere il filo diretto col Padre Eterno e con la storia. Invece c'è qui questa onestà di ammettere dal principio il vecchio principio del Socratico: "L'unica cosa che so è che non so niente." In fondo, questa intellectual honesty, che mi è molto piaciuto in questa confessione di sé stante. E poi, guardando più avanti, ho guardato gli articoli, e poi mi è molto piaciuto anche il fatto che qui si cominciava con gli studi prussiani, sui quali parlerà ancora il collega innocenti, e che, però a me come allievo di Otto Brunner e anche allievo di Sirvik, il problema del paragone fra lo sviluppo verso lo Stato moderno in Austria e in Prussia era un problema che mi aveva occupato fin da tanto tempo, fin dal tempo dei miei studi, prima ancora della guerra, e mi ha accompagnato tutto il tempo durante le mie lezioni di storia europea e anzitutto anche storia germanica durante la prigionia. Nei 3 anni di prigionia in America mi sono occupato sempre di questo problema e ho forse un po' anche esagerato, guardandolo da lontano, i vantaggi ma anche la problematica dello sviluppo verso lo Stato concentrato, lo Stato moderno in Prussia, il periodo di riforme in Prussia, dal grande elettore fino al periodo delle riforme di Stein e di Hardenberg, che era più di un secolo, mentre in Austria questo periodo va, si può dire, da Maria Teresa, o anzi forse anche già si comincia con Carlo VI e finisce praticamente con Pietro Leopoldo. Cioè in Austria tutto questo è più breve, più breve, e in un certo senso anche più problematico, eccetera. In questo confronto mi ha subito colpito che qui c'è uno storico italiano che è completamente entrato nella problematica della storia tedesca, del problema della storia Gesamtdeutsch, come l'aveva concepito il mio venerato maestro Heinrich von Sirvik, che era stato anche, aveva anche affascinato l'amico Valsecchi. Voi vi ricordate certamente della polemica fra Valsecchi e Omodeo, no? Anche l'amico Ara già in alcuni suoi scritti è proprio ha preso lo spunto e partito da questa polemica fra Omodeo e Valsecchi a proposito dell'atteggiamento di von Sirvik. No? Allora questo mi ha molto, molto impressionato, ma poi andando più avanti ho visto uno di questi, che uno è stato anche già nominato, io potrei anche non parlare per niente, perché tutto è già stato detto, ma lo ripeto, uno di questi articoli che insieme compongono questo volume sono già stati pubblicati sulla rivista Popoli nel 41-42. Ma in quel periodo io mi sono trovato, 41-42, mi sono già trovato di nuovo nel servizio militare a Roma presso l'addetto militare, il generale von Rintelen, e portavo in giro poi in un momento specialmente interessante Rommel e la signora Rommel attraverso Roma, perché aveva il 50° compleanno e aveva un certo periodo interessante, e io mi ero occupato di questi problemi e non credo di aver letto quei saggi sulla rivista. Ho letto sempre molto attentamente il primato di Potai con grande interesse, perché il problema della relazione fra l'Italia, il mondo italiano e il mondo germanico, diciamo adesso con tutto, sia tedesco che sia del tedesco del nord, sia la Prussia, sia l'Austria, eccetera, era un problema che fin dai miei studi, appunto proprio grazie a Servic e a Brunner, mi aveva molto occupato. Questo era, diciamo, il mio primo incontro con Sestan, e poi andando più avanti ho trovato un saggio che era anche in questa dai popoli che non avevo letto, che si chiamava Il principe Eugenio, il nobile cavaliere. Allora lo svegliarino subito ha detto: ma guarda, nobile cavaliere, questa è la famosa canzone tedesca, austriaca, popolare, e poi un lied di arte, Prince Eugen, da edle Ritter. Che strano che qui questo professor Sestan, deve essere un uomo che conosce molto bene il mondo tedesco e austriaco. Perché che cosa è questa canzone? Perché sarebbe la traduzione Il nobile cavaliere, strano? La canzone Prinz Eugen da edle Ritter. Questa canzone Prinz Eugen da edle Ritter, Wollten Kaiser wiederum kriegen Stadt und Festung Belgrad, ehrlich schlagen eine Brücken, dass man konnt hinüberrucken, Bitrame wohl vor die Stadt. Questa era una canzone popolare settecentesca, di origine popolare, come sa che cosa è un Volkslied, che cosa c'è certamente qualcuno che l'ha composto, perché non nasce mica dall'anima del popolo, ma è di origine sconosciuta. E nel 800 poi un compositore moderno, cioè moderno ottocentesco, credo che sia stato Karl Löwe, lo stesso che ha fatto anche cose su Napoleone, la Nächtliche Heerschau, eccetera. La Nächtliche Heerschau è di Zedlitz. Uno di questi compositori del periodo di Schubert e di altri romantici, ha fatto una canzone molto bella che comincia sulla Save davanti a Belgrado, che ci sono c'è la luna, ci sono i posteggi che gridano Verda, Verda Rufer, Donau Ufer, eccetera, e poi un trombettiere compone questa canzone, e poi c'è la stessa melodia che aveva la canzone popolare, che dice Prinz Eugen da edle Ritter, hey, das geht wie ungewitter auf das Türkenlager hin, cioè questo va come un uragano sul campo dei turchi, e poi viene testo, non ehrlich schlagen eine Brücken, eccetera, ma l'origine di questa canzone, che il trombettiere si striscia i baffi e poi va a parte dalla vivandaia. Vede, questa è, diciamo, la forma ufficiale. Questa canzone è una canzone di ritmo di cavalleria, come le vostre, come il famoso la famosa marcia di Ferbellino, il Ferbellino Rettermarsch, o anche il Radetzky Marsch, che fu composto dal Giovanni Strauss, padre, per avere qualche mezzo contro le marce dei bersaglieri italiani. Queste marce di corsa e marce, o marce di cavalleria. Dunque, ho capito che qui c'è uno storico che conosce profondamente il mondo germanico, che, come ha detto Angelo Ara, meglio di me, certamente meglio di me, ha detto uno di frontiera, un italiano che conosce di esperienza vissuta il mondo austriaco, tedesco, oggi si dice fin troppo mitteleuropeo, o il mondo dell'Europa centrale. E questo mi ha fatto molto piacere. Poi quando l'ho conosciuto, Ernesto Sestan, ci siamo subito anche capiti da questo punto di vista, perché si parla in fondo la stessa lingua, lo stesso linguaggio, si capisce subito tutte le difficoltà dell'Austria come paese mitteleuropeo, come paese plurinazionale, plurilinguistico, pluriconfessionale, la differenza fra la l'Ungheria, il Regno d'Ungheria, e invece la Cisleitania, la Transleitania e la Cisleitania, la differenza fra il regno di Ungheria e il resto dell'Austria, tutta la problematica del dualismo, del compromesso, nella Cisleitania non c'era una nazione, di Stato, mentre in Ungheria c'era sì una nazione di Stato, cioè il Magiaro, pur essendo poi invece l'Ungheria anche in fondo un paese plurinazionale, perché nel Regno d'Ungheria tutti gli ungheresi, grata grata, da Petőfi in poi, sono di origine slovacco croato o rumeno, eccetera. C'è sempre un grande miscuglio, ma lì un atteggiamento molto diverso di fronte alla problematica dello Stato plurinazionale. Tutto questo Ernesto Sestan l'ha saputo molto, molto bene, e ci si è capiti subito, anche poi parlando sui problemi che mi erano in quel momento specialmente vicini al cuore, cioè i problemi della Toscana, del periodo leopoldino, perché già ho cominciato di occuparmi del periodo leopoldino. Oggi è stato fatto il nome di Anzilotti, che mi ha tanto interessato, è stato Chabot a Colonia che mi ha indicato i nomi di Mori, Mirri, Imperciatori, di tutti quelli che si erano già occupati, in nome di Salustio Bandini, eccetera, delle riforme toscane, delle riforme pre-leopoldine e post-leopoldine, di tutta la problematica che io, scrivendo ancora come giornalista su richiesta di un editore, un libruncolo sul Casa d'Asburgo, mi sono imbattuto in questa famosa confessione di fede nella lettera di Pietro Leopoldo alla sorella Maria Cristina, di governatrice, la più intelligente delle donne. Questi due erano i due più intelligenti dei figli di Maria Teresa, era da un lato Pietro Leopoldo, per il quale ho naturalmente un certo debole, dato che le ho sacrificato quasi 6 anni di studio, e Maria Cristina. Questi erano i due più intelligenti. Maria Carolina era meglio di quello che nella tradizione risorgimentale era, come ha dimostrato Benedetto Croce quando si è occupato della sua biblioteca e ha, con un certo, una certa meraviglia, ha constatato Benedetto Croce che questa donna, che era stata considerata sempre come una cattiva, una strega per le famose cose di Caracciolo, eccetera, in fondo aveva anche certi interessi intellettuali, che non era mica una scema, era un po' un tipo vivace, e troppo presto con i suoi giudizi, ma sia Pietro Leopoldo che Giuseppe II facevano scherzi su di lei, sulle sue idee, però insomma era una donna di una certa fibra. Ad ogni modo mi sono occupato di queste cose e così, parlando con Ernesto Sestan, avevamo subito anche questo atteggiamento, questo interesse. E io sono quasi diventato un po' anche di casa a Firenze e in Toscana, e mi sentivo questa grande ammirazione per la Toscana, per gli interessi di Pietro Leopoldo, nonostante tutto quello che aveva scritto il buon Sobi, o che aveva poi copiato veramente il Roimont, o Roimont come vuole, che in fondo era un plagio, perché il famoso libro di Roimont periodo, sulla Toscana in questo periodo, è tutto, in parte, una traduzione letterale dello Zobi, però non l'ha mai confessato, perché quelli che l'hanno letto hanno letto i suoi libri, non avevano letto i libri di Zobi, e quelli che hanno letto i libri di Zobi non hanno letto i libri di Roimont. Era stato uno storico che poi, per ragioni della guerra e altre, è diventato diplomatico e ha finito la sua carriera come console generale a Napoli, perché era felice di essere vicino all'Istituto Croce. Hans Holldack, che ha scritto alcuni saggi molto intelligenti sulla politica di Pietro Leopoldo, sulla neutralità e su tutte queste cose, e lui ha notato che in fondo questa cosa questo libro di Raimondo era soltanto un plagio, ma toscani, i fiorentini, non avevano saputo questo, lo consideravano il grande amico, è stato perfino cittadino onorario di Firenze, e anzitutto l'hanno considerato, e l'hanno detto, anzi, quando è stato pubblicato, quando sono stati pubblicati i volumi dall'Arnet della corrispondenza fra Giuseppe II e Leopoldo, gli è stato chiesto di scrivere su questa corrispondenza fra i due fratelli, e Arnet l'ha fatto, ma, come ha dimostrato per primo, per caso, il François Feiteux, che di cui adesso un ungherese fuoriuscito, che prima della guerra aveva guardato un po' nell'archivio di Stato di Vienna e ha constatato che il fedelissimo Alfred von Arnett, che era stato un deputato alla Dieta di Francoforte, quando ha scritto questi 10 volumi di storia di Maria Teresia e poi pubblicato gli atti, ha tralasciato le cose, per esempio la semplice cosa che Pietro Leopoldo nel viaggio da Innsbruck a Firenze aveva le coliche, aveva la diarrea, perché un arciduca in quel periodo, nel Settecento si parlava apertamente di questo e altre cose, come le famose questioni del matrimoniali che Stefan Zweig ha scritto sulla Maria Antoinette, eccetera. E in quelle lettere fra di loro tutto era molto aperto, ma un fedele consigliere aulico e direttore dell'archivio di Stato in quel periodo non ne doveva parlare. Allora ho cominciato a occuparmi di Pietro Leopoldo e con Ernesto Sestan siamo stati subito sullo stesso livello e interesse. Ma torniamo al principe Eugenio, quello che era, diciamo, il primo punto di interesse comune. Io mi sono poi occupato dello fatto stranissimo che questo principe Eugenio di Savoia, il più famoso, diciamolo pure, della casa di Savoia nella storia europea o nella storia mondiale, con tutto rispetto per il conte Verde, il conte Biancamano, eccetera, eccetera, e con tutto il rispetto per Vittorio Emanuele II, per Umberto I e Vittorio Emanuele III, è stato detto giustamente che la casa Savoia non è mai veramente entrata nella storia italiana, guardava sempre un po' come dal palco la storia italiana, no? I Savoia fra di loro parlavano sempre o francese o piemontese, no? Allora era una situazione un po' stramba e io mi sono occupato come mai che quel principe Eugenio, di cui si fa tanto chiasso nella storia, che è una figura di primo piano nella storia austriaca e tedesca, nella storiografia italiana è quasi una figura marginale. Non si può negarlo che esista, ma si parla poco, o se si parla, come il caso chiaro con questo mattone di Francesco Cognasso, che di più di 1000 pagine, dove non si parla di principe Eugenio, il principe Eugenio, e c'è un ritratto suo, e credo che sia stato messo dentro su richiesta dell'editore Andrea D'Aoglio. Mentre qui nelle tavole, sono più di 1000 pagine, e nelle tavole genealogiche è solo nominato, non è neanche stampato grande perché non era mai un regnante. Eugenio di Savoia, il condottiero, cioè il condottiero che, credo almeno che questa parola condottiero in Italia è un po' spregiativo, ad ogni modo non è tanto elogiando. E se si guarda è solo in un capitolo dove si parla continuamente Vittorio Amedeo II e della Superga, e quando sono stato, non so se sia ancora adesso così, quando si va nella bellissima Superga e si ha questa vista che avevano i due l'assedio e la battaglia di Torino del 1704, e la guida non parla neanche principe Eugenio, dice soltanto qui Vittorio Amedeo II ha guardato qui e qui è sepolto Vittorio Amedeo, e il principe Eugenio esce completamente di scena. Ed è una cosa stranissima, no? che in Germania, nel mondo germanico e anche nel mondo francese fino a un certo punto, questo principe Eugenio è stimato. E ricordo soltanto il fatto che perfino durante i 10 anni di occupazione delle 4 potenze in Austria, uno era il generale Betoir e l'altro era un giovane addetto inglese alla ambasciata inglese, cioè al comando inglese, che hanno scritto biografie sul principe Eugenio. In Italia invece niente, e neanche quando Max Braubach ha cominciato la sua grande opera, voluminosissima opera di 5 volumi sul principe Eugenio, in Italia non c'è stato quasi nessuna eco. E poi quando in occasione di 250 anni della morte del principe Eugenio, tutti i giornali tedeschi, tutta l'Austria era piena delle librerie di grandi volumi sul principe Eugenio, non è neanche da contare, l'Italia assolutamente niente. Allora mi sono interessato come mai è possibile questo, ho chiesto all'amico Silvio Furlani, che lui naturalmente dispone di tutto il materiale, e lui mi ha mandato tutto quello che è stato pubblicato e che si trova nella biblioteca della Camera dei Deputati. E ho notato che in Italia sul principe Eugenio ci sono soltanto opere di generali, di storia militare, e soltanto durante il periodo dell'asse, molto breve. Prima era considerato un traditore perché era passato al servizio degli Asburgo. E dopo, al tempo dell'asse, ci sono un po' di lavori di militari, gli oiori, eccetera, che però poca eco, o di storia locale, cioè diciamo gli storici locali scrivevano qui il passaggio del principe Eugenio quando andava da Carpi a Torino, eccetera, ma del resto niente. E nelle librerie soltanto un libro che era stato di un emigrato tedesco in Svizzera, che era già stato scritto 10 anni prima e che poi è stato ripubblicato. Insomma, un completo disinteresse della figura del principe Eugenio. E abbiamo avuto degli incontri a Innsbruck, per esempio, organizzato dall'addetto culturale e direttore dell'Istituto di Cultura di Innsbruck, professor Borsani, che ha invitato me e un collega giornalista del giornale piemontese, che aveva una simpatia speciale per il principe Eugenio, e veniva poi la banda musicale di Tirolo, dell'esercito austriaco, e suonava la marcia del principe Eugenio, mentre il gruppo Pietro Micca di Torino venne in Austria e faceva le sue esercitazioni 4 volte davanti al Belvedere e poi a quella mostra al Schlosshof, in questo uno dei castelli di principe Eugenio, fra Vienna e Pressburg o Bratislava o Pozsony, come vuol chiamarlo, la città della incoronazione, dove Maria Teresa fu poi incoronata. Insomma, qui c'è pochissimo interesse per il principe Eugenio, che viene chiamato, con una eccezione curiosa, che è stato Umberto II, il re Umberto II, che dopo l'applicazione o dopo essere andato via, si è occupato di storia di famiglia, di medaglie, eccetera, ed è venuto a Vienna a lavorare nell'archivio per mettere insieme le cose che lo interessavano, eccetera. E lui si è occupato del principe Eugenio e poi si è interessato anche del lavoro di Max Braubach. Max Braubach era uno storico renano che nella prima guerra mondiale era ufficiale di cavalleria e poi dopo finito l'esercito è diventato piccolo e lui ha studiato storia all'università di Bonn e il suo maestro Schulte gli ha detto lei è un ufficiale di cavalleria, si occupi del principe Eugenio e lui se ne è occupato e per quasi tutta la sua vita si è occupato di lui e ha fatto questi 5 volumi sul principe Eugenio. Mentre il Arnett aveva già scritto 3 volumi. Allora abbiamo in Austria, a parte tutte le altre, non parlo di tutte le altre libri, perché sono decine, 2 grandi opere, uno da 3 volumi, uno da 5 volumi, grossi volumoni, sul principe Eugenio. Ma né Arnett né Braubach sapevano bene l'italiano, cioè loro erano fissati, sapevano tutti e due bene il francese ed erano fissati sul problema Vienna e Versailles e Vienna o dopo Vienna e Berlino, l'Austria e la Prussia. Il principe Eugenio italiano è un personaggio assolutamente sconosciuto e ancora è sconosciuto. Questa è una cosa strana che si dovrebbe fare. Gli italiani non hanno interesse perché poi sono delle cose che lui ha dettato, lui ha parlato l'inglese, naturalmente il francese, l'italiano e dettato il tedesco. Ma non scriveva in tedesco perché la scrittura tedesca, poi abolita da Hitler, lui non lo sapeva. Dettava in tedesco, ci sono i famosi detti suoi, ma però lui stesso non ha mai scritto. E nessun italiano, storico italiano, si è mai preso la fatica di guardare. Allora io credo, benché lui era un personaggio molto reticente, molto riservato, non si ha materiale personale di lui. E il grande uomo, come Moltke, la grosse Schweiger, non ha parlato di se stesso, non abbiamo neanche una riga di cose veramente personali suoi. E lì c'è ancora un compito da fare. E per il problema poi considerare se principe Eugenio apparteneva, era italiano, era da considerarsi italiano o era da essere considerato francese o tedesco o austriaco, tutto questo è ancora, rimane in fondo una domanda che lascia il tempo che trova, che in fondo non vuol dire niente. E qui voglio arrivare a citarvi una parola dell'amico Valsecchi, che ha scritto una cosa, scusate un momento, che diceva di lui, un momento se lo trovo, è qui. No, non, che il principe Eugenio non appartiene, non si può misurare col metro della nazionalità, che lui in fondo era un uomo, apparteneva alle grandi famiglie europee, cresciuto, nato come figlio dell'Olimpia Mancini e di un Carignano Soissons, cioè di un Savoia al servizio di Luigi XIV, poi è passato al servizio dell'imperatore, non può essere misurato col metro della nazionalità. E questo è certamente una cosa giusta, che la discussione se lui appartenga sì o no all'Italia, se può essere considerato un italiano. C'è stato un italiano che amava parlare male, che aveva un po', ci sono anche degli italiani che hanno un certo masochismo, come esiste un tedesco masochismo, un austro masochismo, che è un ciociaro che si è piemontizzato, e allora oltre piemontizzato, e lui scriveva in fondo questo generale certamente è un italiano, ma non appartiene né all'età barocca né all'età, è un uomo del Rinascimento. Insomma, su questo si può anche discutere. E tutto il problema è, per esempio, del giansenismo, l'interessante problema del filo giansenismo, che è chiaro, è stato un po' sottovalutato dal cattolicissimo collega e amico Max Fraubach, che non voleva entrare in queste questioni. Lì c'è ancora, insomma, tutte le testimonianze dimostrano che il principe Eugenio era un grande protettore dei giansenisti, l'amico di Passionnet, la Università di Parigi l'ha chiamato, gli ha scritto l'ha lodato per le sue simpatie. Anche diciamo il periodo in cui lui era il governatore di Milano viene misurato molto diversamente. Prova che non l'ha letto bene, scriveva era soltanto formalmente governatore di Milano, mentre Sirvik dice invece sì, si vede dai suoi atti che lui l'ha studiato bene la situazione anche a Milano. Insomma, ci sono molti problemi aperti sul principe Eugenio, nonostante quella enorme letteratura che esiste. E di tutto questo lì io ho trovato, per ritornare a Sestan, una grande comprensione per l'importanza del principe Eugenio. E per dire solo una parola ancora su quello che è stato scritto sul suo che è già stato detto dall'amico Ara sulla sua relazione nel volume qui, questa conferenza che ha tenuto qui a Trento, questa sua cosa centralismo, federalismo e diritti storici nell'ultimo mezzo secolo della monarchia asburgica, che Franco Valsecchi e io l'abbiamo pubblicato qui, frutto di un convegno. Qui lo stesso è arrivato che Ernesto Sestan aveva capito benissimo tutte le difficoltà della complicatissima storia della monarchia asburgica, e vorrei soltanto leggere, per ritornare al principe Eugenio, a quello che lui aveva scritto in questo saggio sul principe Eugenio, pagina 73, e con questa ultima citazione finirò. Poi, mi scusi, qui quando parla del principe Eugenio, quando è morto il 21 aprile 1738, dice che era un uomo, poi il fisico era brutto, però deve essere stato un uomo impressionante lo stesso. Non si sa niente neanche della sua vita emotiva o amorosa. Negli ultimi 30 anni fu legato da tenera amicizia per una donna d'alta intelligenza e femminile buon senso, la contessa Eleonora Batian, nata contessa Stratmann, una renana, il cui ricordo rimase a lungo vivo fra i vienesi, la bella Lori. Nella sua casa amava trattenersi in piccola compagnia e giocare a tarocchi, era whist, non so se la traduzione di whist in tarocchi, tarocco e i tarocchi è un po' diversa, credo, del whist. A ogni modo, lui aveva la capacità di aprire un mazzo e subito dire come sarebbe andata a finire la partita. E lui era un ottimo giocatore di carte, sempre azzardato, come anche i teorici di tattica li rimproveravano che era troppo azzardato, che non era un buon teorico della guerra perché prendeva troppi rischi. Siamo qui nella sua casa per tarocchi, e dopo una di quelle quasi familiari serate, dove però c'erano presenti due ambasciatori esteri e lui, Brobach ha scritto sul suo servizio segreto, lui in fondo aveva un servizio segreto efficacissimo, di cui erano assoldate anche ministri prussiani e gente dappertutto. Poi Maria Teresa l'aveva ereditato questo servizio segreto, e Pietro Leopoldo naturalmente anche. E allora non ebbe il suo, quasi familiari serate, lo colse placidamente la morte nelle prime ore del 21 aprile 1736. Non ebbe il suo Plutarco quest'uomo di tempra antica, tutto proteso a realizzare in se stesso un ideale di antica grandezza, di dominio di sé, di abnegazione, di lealtà, di modestia orgogliosa, come è spesso la modestia. Quest'uomo che poté essere e non volle duca di Mantova e re di Polonia, che informava in questi termini il suo imperatore della vittoria sua di Torino. Adesso cito, cioè Sestan cita questa lettera: primo fra tutti il duca Vittorio Amedeo di Savoia, che a sua gloire immortale e a suo onore non risparmiò l'augusta sua persona, ma la espose senza tema là dove maggiore era il pericolo, per il bene della causa comune e da conforto e gioia dei sudditi e del paese, e fu presente dal principio alla fine, guidò egli stesso i soldati e cacciò il nemico oltre il Po, sempre impartendo gli ordini opportuni durante la battaglia. E poi Sestan chiude: di sé non una parola. Questo forse è la cosa più, il giudizio più bello che è stato dato sul principe Eugenio, che in fondo, per ancora questa chiosa, è che Umberto II è venuto perfino a Bonn a far visita quando Braubach aveva i 50 anni dell'insegnamento a Bonn, e Braubach durante la guerra aveva conosciuto aveva come interprete un futuro diplomatico austriaco, e questo diplomatico austriaco Gon, che era poi diplomatico a Lisbona, ambasciatore a Lisbona, lui e Umberto II hanno poi fatto venire con le spese del Goethe-Institut il Max Braubach per fare una conferenza all'Accademia delle Scienze a Lisbona sul principe Eugenio. Cioè un diplomatico austriaco, un professore renano a spese del Goethe-Institut, e il re, ex re italiano, hanno fatto venire quest'uomo per parlare sul principe Eugenio, e Braubach aveva l'onore di portare la ex regina di Bulgaria a tavola. E questo dimostra che in fondo il principe Eugenio, e Ernesto Sestan ha capito molto bene questo, era un uomo veramente di una figura della storia italiana, francese, tedesca, europea. E in fondo europea. Grazie per la vostra attenzione.